La stanza che precede la camera gas è illuminata da poche lampade. Lo zio, muto e assente, si sta lentamente spogliando. Toglietevi tutto, attaccate lì. Vi prenderete dopo la doccia. Avanti. Una ausiliaria tirata alla porta della camera gas torna indietro e inciampa su qualcosa. Subito lo zio le porge la mano e l'aiuta a rialzarsi. Si è fatta male, signora? La donna si ritrae guardandolo con disprezzo. Camerata di Guido. Bartolomeo si è trasferito nel lettuccio basso di Guido e Giosuè. Grazie, Bartolomeo. Giosuè, da ora in poi devi stare nascosto tutto il giorno. Se ci vedono ora è finita, ci squalificano. Io che devo fare? Niente, devi stare. Vittorino, aiutami. Devi stare. Lo sistemano nel giaciglio superiore. Hai capito? Non ti devi far vedere da nessuno, specialmente da quelli cattivi cattivi che urlano. Ricordatelo, eh? Nasconditi! Non ti devi... Questo è il momento più difficile, Giosuè, però... Se va bene questo, il carro armato è nostro. È una botta da 120 punti al giorno, eh? Ti porto con me, ti nascondo io, non ti preoccupare. Tu sei sparito. Chi ti ha mai visto? Chi ti conosce? Io non ti ho mai visto. Dov'è? Boh, hai capito? Giosuè! Compare la faccetta allegra del bambino. T'ho visto! Allora, Giosuè scompare. Bravo! Dora e le ragazze della sua camerata sono al lavoro nella penombra di un immenso e squallido capannone. Dora, ai piedi di una montagnola di indumenti, separa cappelli da scarpe, da occhiali, da vestiti, da guanti. Lo fa in religioso rispetto, con la gola chiusa dal dolore, perché ha paura che da un momento all'altro le capiti tra le mani qualche segno di Giosuè o dello zio. Tra quegli stracci, come a cercare qualcosa o qualcuno, si muove miagolando un gattino. Achtung, Achtung! Der Osteingang bleibt für einige Tage geschlossen. In un vicolo lungo e stretto è pigiata una fila di prigionieri che tornano mesti dal lavoro. Tra questi c'è Guido che spinge una carriola traballante. Ogni tanto da sotto i sacchi che trasporta viene fuori un debole singhiozzo che lo allarma. Girato l'angolo, il gruppo passa davanti ad una porta aperta su una stanzetta illuminata. Un soldato tedesco esce di corsa e sparisce in fondo alla stradina. Guido rallenta di colpo perché vede qualcosa che gli eccita la fantasia. Infatti, all'interno dell'ufficio incustodito sopra il tavolo è posato un microfono. Guido non ci pensa due volte. C'è nessuno? Disturbo? Bitte? Bitte? Il ragazzino sbuca da sotto i sacchi. Veloce come un razzo, vieni. Buongiorno, principessa! Stanotte t'ho sognata tutta la notte! Andava al cinema e c'avevi quel taglierino rosa che mi piace tanto! Non penso che a te, principessa! Penso sempre a te! E ora... Dora ha ascoltato con trepidazione, con i pugni chiusi forte forte. Una luce si accende nel suo sguardo. Babbo, sono asciutti? Sì, sono asciutti. Vieni, vestiti. Rientrano alcuni prigionieri, l'aria cupa, tutti bagnati dalla pioggia. Tra questi c'è Bartolomeo, che va a sedersi sulla sua branda. Oh, Bartolomeo, Vittorino, Alfonso, tutti bagnati. Non ce l'hanno fatta. Un'ausiliaria tedesca compare sulla porta intimando a tutti di uscire. Giosuè sparisce nella sua branda, controllato con la coda dell'occhio dal padre. I prigionieri sono in fila per la visita lungo il muro di uno stanzone imbiancato, ritti sulle gambe e a torso nudo. Davanti a loro un ufficiale medico in camice. Guido vede avvicinarsi l'ufficiale e sbalordisce. Il medico lo visita alla svelta e passa al prigioniero successivo. Allora Guido si fa coraggio. Se fai il mio nome non ci sono più. Il silenzio. Il Grand Hotel. Guido. Dal tavolo scatta verso di lui un sottufficiale e il medico gli indica Guido. Guido rientra nella camerata. Guido, meno male, mi ero impaurito, che ti è successo? Sono mezzi matti. Quello lì che fa le visite, il capitano, no? È un mio amico, ho conosciuto quando facevo il cameriere al Grand Hotel. Ma non me l'ho detto che fanno una cena, mi ha detto, con tutti gli ufficiali, con le mogli. Ma l'ho detto se io faccio il cameriere a questa cena. Ma guarda, forse mi vuole aiutare, magari ci portasse via di qui. Sale verso il lettino cercando il figlio. Ma dove? Ho visto Giosuè. Come? Giosuè. Guido si china e vede il ragazzino sotto il letto basso. Che fai? Vieni. No. Ti ho detto vieni. No. Come? Vieni fuori, vieni. Vieni, ma guarda qua che sei tutto sporco sei. Ora quando... Non sei stato. Sono stato, te l'ho detto, devo finire quella partita a briscola. Con noi ci vanno i bottoni e il sapone. Ma che dici? Ci bruciano tutti nel forno. Ma chi te l'ha detto? Un uomo piangeva, ha detto che con noi ci vanno i bottoni e il sapone. Giosuè, ma ci sei cascato un'altra volta. Guarda, eppure ti facevo un ragazzino vispo, furbo, intelligente, i bottoni di sapone con le persone. Ma sarebbe il colmo dei colmi, ma dai. Ma ci hai creduto, eh? Ci pensi, domani mattina mi lavo le mani con Bartolomeo, una bella insaponata, eh? Poi mi abbottono con Francesco. Oh, che miseria, oh, guarda qua, mi è caduto Giorgio. Ma questo sarebbe una persona. Dai, ma ti hanno preso in giro, ma ci sei cascato i bottoni e il sapone. E poi che ti hanno detto? Che ci cuociono nel forno. Ci bruciano nel forno. Ci sei cascato. Ma a te te le fanno proprio bene tutte. Ma dai, il forno a legna l'avevo sentito, ma il forno a uomo non l'ho mai visto, eh. Mi manca la legna, prendi quest'avvocato. Fum! Oh, non brucia quest'avvocato, è proprio verde, verde, guarda che fumo che fa. Ma dai, ma Giosuè, i bottoni, il sapone ci bruciano nel forno, dai. Senti, parliamo di cose serie. Io domani mattina ho una corsa coi sacchi con quelli cattivi che... Basta, babbo, voglio andare a casa. Ora? Adesso. Ma ora piove, lo vedi, ti viene una febbre a 40. Non mi importa, andiamo. Vabbè, se vuoi andare, andiamo, prendo la roba e ce l'andiamo, va bene? Si può andare? Certamente, io non crederei mica che tengano la gente qui per forza, Giosuè. Sarebbe il colmo. Questo sarebbe bella veramente. Andiamo, facciamo le valigie e ce ne andiamo. Prendo i bagagli, peccato perché eravamo primi. Ci si ritira, ci si scancella. Vabbè, il caro armato vero lo vincerà un altro bambino. Perché non sono più bambini, sono solo. Non c'è più bambini. È pieno così, è zeppo di bambini. E dove sono? E come? Sono tutti nascosti, eh. Non si devono far vedere. È un gioco serio, Non ci capisco niente con questo gioco, ma quanti punti abbiamo? 687. Te l'ho detto mille volte. Comunque, andiamo, va. Siamo primi. Comunque, se vuoi andare, siamo andiamo. Primi? Siamo primi, Te l'ho detto, sì. Certamente. Comunque ci si ritira, va. Ho visto ieri la classifica, proprio prima. Comunque uguale, via, andiamo via. Oh, ciao Bartolomeo, io e Giosuè andiamo, ci siamo stufati, Ciao. Ah, senti, caro armato, l'hai visto, è finito, è pronto, no? Prima di partire, di mettere in moto, dai una pulita alle candelette, mi raccomando, e tira l'aria, perché sennò si inceppa il cannone coi cingoli e la mitraglia. Hai visto bello il cannone, i cinque punti bellissimi, Va bene, e leva il freno a mano prima di partire, Va. Io e lui andiamo, ci si ritira, si può ritirare Giosuè, Potevamo tornare col carro armato fra poco, torniamo oggi in autobus, è uguale, Ciao, io e Giosuè andiamo, arrivederci a tutti ragazzi. Noi ci siamo stancati, andiamo via, arrivederci. Andiamo, Giosuè, vai, che non si perde la luce. Arrivederci a tutti ragazzi, andiamo. Giosuè, andiamo. Andiamo. Non piove, mi viene la febbre a 40. Guido, sollevato, rientra nella camerata. Nel piazzale del Lager, i quattro altoparlanti diffondono un discorso di Hitler. Un'auto tedesca si ferma davanti all'ingresso della palazzina. Ne scendono due donne e quattro eleganti ragazzini che immediatamente cominciano a giocare a nascondino. Guido, vestito da cameriere, è all'interno di un saloncino degli ultimi piani della palazzina e sta apparecchiando la tavola. Si avvicina alla finestra, vede i bambini giocare ed è illuminato da un'idea improvvisa. La camerata è vuota. Josué, sulla branda più alta, gioca con una pentolina. Sente aprire la porta e si nasconde sotto la coperta. Josué! Josué! Sono io, sono il papà! Ti devo dire una cosa importante! Vieni, Guido corri, porta fuori Josué. È da stamane che questo furbacchione mi scappa! Ma sei davvero un bambino? Uno, saranno 2000, sono come topi, si nascondono dappertutto! Vogliono il carro armato questi maledetti! Fermi. A pochi passi c'è un piccolo casotto metallico della grandezza di un comodino. Forse l'ho visto. Dovrebbe essere qui vicino. Vieni, guarda qua. Vai a vedere se è nascosto lì dentro. Io aspetto qua. Vai, sto attento, vai. Josué va e apre la porticina. Sobbalza. Ma ti chiuso, gli benissi. Babbo, c'è, c'è. C'è, com'era? Era biondo? Sì. Allora è lui, si chiama Svans. Sono 3 settimane che sta là dentro, eh? Era secondo in classifica, l'abbiamo eliminato. Prima o poi troverò anche gli altri, eh? Quanti ce n'è? Un vespaio, è pieno così. Sono tutti nascosti. In quel momento esce un'ausiliaria che chiama a raccolta i bambini. Papà, guarda! C'è un covo! Questo è eliminato! Andiamo! Ma la donna tedesca si accorge anche di Josué. Lo crede un bimbo della compagnia rimasto indietro. Punta l'indice, lo chiama. Porca miseria, ci ho visto! Babbo, eliminati! No, no. Senti, sta venendo a pigliare te, eh? Ora comincia il gioco dello zitto. Hai capito? Tu non devi parlare mai. Giuralo. La soldatessa a grandi passi va verso il bambino. Lo giuro. Bravo. Corso, Henry. Senti, parlano tutti strano, non si capisce niente. Tu sempre zitto, eh? E se passiamo questo il primo premio è nostro. È il raduno dei primi in classifica. È il gioco dello zitto. Sempre zitto, hai capito? Sempre zitto, sempre zitto. La donna prende Josué per mano, con l'altra lo spolvera. Perché sei qua con bambini? Ho andato a... Zitto! Tu non devi parlare mai, capito? Giuro. Vanno verso la palazzina. Guido, prima di affrettare il passo, fa l'occhiolino al figlio. È in corso la cena degli ufficiali tedeschi con le mogli e i bambini. Da una parte il tavolo degli adulti, dall'altra quello dei bimbi. Guido serve al tavolo dei genitori. Il capitano Lessing neanche lo guarda. Disturbato dalle urla dei bimbi, un maggiore in uniforme si alza. Schluss jetzt, Peter und Gretel! Esst und seid ruhig! Josué, muto come un pesce, vede che anche gli altri tacciono. Il gioco gli piace. E poi si mangia tanto. Il capitano Lessing butta finalmente un'occhiata furtiva a Guido. Il medico fa volutamente cadere a terra le posate. Guido si precipita a raccoglierle. Ti devo parlare. Molto importante. Dove? Quando? Ti faccio il segno io, più tardi. I bambini mangiano in silenzio. Guido fa i piatti che un cameriere tedesco posa davanti ai ragazzini silenziosi. Grazie. Josué si rende subito conto di aver fatto un grave errore. Wie hast du gesagt? Wie heißt der Kleine? Josué continua a non rispondere. Guido non sa che fare. Il cameriere tedesco esce velocemente dalla stanza. Guido lo segue e lo vede sparire in fondo al corridoio. Quindi torna indietro verso i ragazzini. Dopo un attimo entrano nella stanza il cameriere tedesco e l'ausiliaria. No, grazie, grazie. I due si fermano sulla soglia. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ho detto te di non parlare con bambini. Yes? Ist noch mal ihr Kleinen, aber in Ruhe. Da un grammofono a tromba escono le tenere note di un tango delicato, dolcissimo, che fa ora da sottofondo alla serata degli ufficiali e delle loro signore imbellettate. Guido si avvicina al capitano. Dottore, c'è anche mia moglie. Lessing, ja, was ist denn los? Komm, amüsiere dich heute Abend. Guido si allontana e va nella sala dei bambini. I ragazzini stanno mangiando il dolce, sempre zitti. Josué ha la bocca stracolma e non ce la fa ad ingoiare. Il padre si china alle sue spalle. Piano, Josué, mangia piano che ti fa male. Siamo in testa. Forse ce ne andiamo prima, Josué. Sì, finisci prima il gioco. Non sbagliare ora che siamo in testa, non sbagliare. Piano. Si risolleva dirigendosi verso il resto degli ospiti. Questa volta è il capitano Lessing che sbircia verso Guido. Il capitano ancora volutamente rovescia il suo bicchiere. Guido corre con un tovagliolo e asciuga il tavolo, mentre il capitano lo guarda pensosamente. Allora Guido, fai attenzione. Grasso, grasso, brutto, brutto, tutto giallo in verità. Se mi chiedi dove sono, ti rispondo qua, qua, qua. Guido lo ascolta con attenzione, smette per un attimo di pulire il tavolo, come paralizzato. Camminando faccio popò. Chi sono io? Dimmelo un po'. Guido è incredulo. L'anatroccolo, no? Guido annuisce. E l'anatroccolo? Invece non è. Me l'ha spedito un mio amico veterinario di Vienna e non posso spedire a lui il mio finché non risolvo questo. Guido è sempre più avvilito. Ho pensato l'ornitorinca, ma non fa qua qua qua. L'ornitorinca fa l'ornitorinca. L'ho tradotto in italiano per te stanotte. Che mi dici tu? Tutto porta all'anatroccolo. Aiutami, Guido. Guido non l'ascolta più. Per l'amore del cielo, aiutami. Non riesco a dormire. Guido si allontana mestamente, rientrando nei suoi pensieri di sempre. E l'anatroccolo! Guido si è affacciato a vedere i bambini. Alcuni si sono alzati, altri finiscono di mangiare. Josué si è addormentato al tavolino, la testina sulle braccia. La puntina è andata oltre l'ultimo solco. Il disco gira a vuoto sul grammofono. Guido si avvicina e cambia disco. Ne vede uno interessante. Decide di metterlo. È la barcarola di Offenbach. Guido apre di più la finestra e gira un poco la tromba del grammofono verso l'esterno, dov'è notte. La melodia struggente della barcarola si perde nella fitta e bassa nebbia del campo. È la musica che ha fatto da cornice all'incontro d'amore tra Guido e Dora. Ora, dondolando nella foschia accesa dalla luna alta nel cielo, vaga per le strade buie di quell'immensa prigione, in cerca di lei. Dora si è alzata dalla sua branda e, attratta dalla musica lontana, si avvicina alla finestrella, la apre e guarda fuori. Capisce che è per lei, una serenata per lei. La musica è come attutita dalla nebbia. Guido è nel piazzale, proprio sotto la palazzina degli ufficiali. Sbuca dalla nebbia Giosuè. Giosuè, vieni qua, vieni, sono qua. Ma sono. Vieni, Giosuè, bravo, vieni. Ma qui dove siamo? Forse ho sbagliato strada, Giosuè. Giosuè, bravo, dormi, vai, fai un bel sogno, vai. Forse è tutto un sogno per davvero. Ti sta sognando, Giosuè. Domattina viene la mamma a svegliarci e ci prepara due belle tazze di caffè e latte con i biscotti. Prima si mangia e poi io ci fo l'amore due o tre volte. Se ce la fo. Spariscono nella nebbia mentre Giosuè dorme in braccio al padre. Guido si ferma all'improvviso dove la nebbia è più leggera. Resta impietrito. Davanti a lui si alza una vera e propria montagna di cadaveri. Guido indietreggia, ingoiato dal bianco. Qualcosa sta succedendo nel campo, qualcosa di straordinario. Nella camerata, Giosuè dorme tra le braccia del padre. Il frastuono sveglia Guido, che copre il figlio che dorme ancora, e scende giù, raggiungendo i compagni presso la finestra. Scusa, Bartolomeo. Quei due ufficiali li hanno già chiamati 20 volte al comando. Secondo me se la sono sgrignata. Hai capito qualcos'altro in tedesco? E che c'è bisogno di sapere il tedesco, non lo vedi? È finita la guerra, è tutto un fuggi-fuggi. Ma quei camion, dove vanno? L'importante è non salire su quei camion. Vanno pieni e tornano vuoti. Hai capito dove vanno? E le donne? Ma che succede? Ma qui, ragazzi, conviene sparpagliarsi fuori della baracca, se no qui si fa la fine del topo. C'è neanche a far la valigia. Andiamo. Sono ore che sento smitragliare, cani che abbaiano. Mi sa tanto che vogliono fare piazza pulita. Senti, Bartolomeo, io vado. Ci si vede a Viareggio, si fa la società, si mette su un'azienda di cuderi. Ciao, ragazzi, io vado. Il campo è spazzato da un vento forte, intermittente. Padre e figlio scivolano in un vicolo buio, attenti a non essere investiti dall'occhio di bue. Guido ha con sé una coperta. Si fermano in un angolo da dove si vede la palazzina degli ufficiali illuminata da un falò. Giosuè, vieni a vedere, guarda come sono arrabbiati, proprio neri, eh? Hai visto? Stanno cercando te, ti stanno cercando, tutto per te. Sei rimasto l'ultimo, l'unico da trovare, guarda là, guardano pure sotto i sassi. Hai visto che roba? Allora, domani mattina il gioco finisce, c'è la premiazione. Se non ti trovano stanotte facciamo 60 punti. Quanti punti abbiamo? Abbiamo 940 punti, più 60? 1000. Primi, vinti, eh? Mamma mia, come ti cercano, sono arrabbiati. Oh, non sbagliare stanotte, mi raccomando. Vai lì, nella casetta, veloce come un raggio. Ma là c'è Svanz. Chi? Svanz, quel bambino biondo, babbo. Ah, già. No, ma l'hanno preso ieri, eh? L'hanno preso, è stato eliminato. Quello è il posto più sicuro, non ci guarda più nessuno, c'era Svanz. Andiamo, veloce come un raggio, vieni. 1, 2, 3. Vai, andiamo. Dentro, vai. Vai, oh, tieni la coperta se c'è freddo. Tieni, eh. Io torno fra poco, Gesù. Ciao, torno fra poco, vado a buttarmi fuori di casa. Mi pare di averlo visto di là. Si guarda intorno e scappa furtivo. Accanto al filo spinato sono ammassate molte donne in attesa di salire sui camion. Guido vede la scena da lontano. Si muove nell'ombra. Vieni, non può avvicinarsi. Torna indietro di corsa. Papà, mi hai fatto prendere un colpo. Josué, dammi la coperta. C'hai freddo? Allora dammi anche il maglioncino. Dammi anche il maglioncino che lo butto su un albero e li metto fuori strada, Va bene, vedessi come ti cercano. Tutti che urlano, dove è Giosuè? Dove è Giosuè? Dicono parolacce. Ma sono proprio arrabbiati, neri, non ti trova nessuno. Allora ciao, ritorno dopo. Senti Giosuè, se io ritardassi di parecchio, tu non ti muovi, Non uscire, tu devi uscire. Dammi a sentire, devi uscire soltanto quando c'è silenzio assoluto e non vedi più nessuno, per sicurezza. Ripetimi. Io non esco finché non c'è nessuno. Bravo, testa dura. Lo bacia sulla fronte. Ciao, vai. Chiude e scappa dietro l'angolo, dove si tira su i calzoni fino alle ginocchia, si sistema la coperta intorno alla vita. All'improvviso sente vicino il forte abbaiare di un cane. Si affaccia all'angolo e vede un cane lupo al guinzaglio di un soldato tedesco che sta abbaiando a Giosuè, quasi col muso dentro lo spioncino della casetta. Andate via. Vai via, cane, vai via. Via, cane. Vai via. Vai via, vai via. Cane. Alza le mani e vai agita via, le dita, cane, via, come un mago. Vai via, vai via, vai via, vai via. Infatti, di lì a poco i tedeschi si allontanano. Bravo, Ferruccio. Funziona. E scappa nel buio, avvolgendosi la giacchetta di Giosuè intorno alla testa. Da dietro un angolo compare il volto di Guido con la giacchetta di Giosuè in testa a formare un copricapo femminile. Raggiunge le donne in fila, pronte a salire su un camion, guardandole in volto. Dora, c'è una che si chiama Dora. Si ritrae di colpo perché l'occhio di bue in perlustrazione del campo attraversa il vicolo. Passata la luce, Guido viene fuori, fa qualche passo e si arrampica velocemente sopra una finestra. Si aggrappa ad uno sponzone di ferro che esce dal muro. Subito passa sotto i suoi piedi il cerchio di luce del faro. Salta giù e, quatto quatto nel buio, si dirige verso la camerata delle donne. Dora! Dora, sei qui! Sono Guido! Lo so che c'è qualcuno nascosto! C'è una che si chiama Dora! Fuori un camion carico di donne sta facendo manovra e indietreggiando si infila in un vicolo. E c'è una che si chiama Dora, è un'italiana, è mia moglie, Dora. C'è una che si chiama Dora. Dora! Dora! Sono io, Dora! Chi è? No, non è lei! C'è un'altra Dora! Appena fuori buttatevi di sotto dal camion, scendete, buttatevi di sotto! Il camion è già lontano, Guido rimane solo allo scoperto. Un'ausiliaria tedesca lo vede. Guido scappa subito rincorso dall'occhio di bue. Il cerchio di luce illumina il muro dove Guido si è arrampicato la prima volta. Torna indietro e c'entra una coperta appesa e svolazzante. Il faro si allarga e si alza. Guido è appeso allo spunzone e accecato dalla luce. Si lascia cadere giù. Ma un soldato tedesco lo raggiunge con il mitra in mano. Fa un passo indietro come per sparargli. Guido chiude gli occhi rannicchiandosi, ma una voce ferma l'azione. Halt! Was machst du? Nicht hier. Klingen an den übrigen Ort. Befehl. Ja. Il soldato con la canna del mitra intima a Guido di andare avanti, lui dietro. Si allontanano dalla zona delle donne verso il piazzale. Guido si accorge che sono a una decina di metri dal casotto dove è nascosto Giosuè. Rallenta un po', getta uno sguardo verso il ragazzino. Gli occhietti di Giosuè si accendono nel buio del casotto, al di là dello spioncino. Vedono Guido, vestito buffamente da donna, che ora d'improvviso gli fa l'occhiolino e gli sorride. Poi l'uomo prende un'aria divertita e cammina con il passo dell'oca, i movimenti militareschi che Giosuè conosce bene. Was zum Teufel machst du? Schneller! Tempo! Feuer! A destra c'è un casamento. I due scompaiono dietro l'angolo. Nel treno. Dopo un attimo, il soldato torna indietro a passo svelto, rimettendosi a tracolla l'arma. Il sole si è affacciato sul piazzale del lager. Il vento continua a soffiare. Sopraggiungono alcuni camion carichi di soldati tedeschi. I camion lasciano il campo, seguiti da due motociclisti e da una vettura militare. Il sole si è alzato ancora. Il vento comincia a scemare. L'ultimo centinaio di detenuti lascia stancamente il campo dalla porta principale. Sono i più deboli. Si aiutano l'un l'altro. E quando anche l'ultimo prigioniero è uscito dal lager, ecco il piccolo casotto dove si è nascosto Josué. Piano piano la porticina si apre. Josué esce. Fa qualche passo, guardandosi intorno con un mezzo sorriso. Non c'è più nessuno. Non vola una mosca. Poco lontano da lì, improvvisamente, qualcosa rompe il silenzio. È il rumore sordo di un motore mai sentito prima, che si fa sempre più vicino e più potente. Josué punta gli occhi davanti a sé. Il rumore è quasi assordante. Da una strada tra due costruzioni sbuca imponente un enorme carro armato verde, con la stella bianca degli americani. Il bestione gira sollevando un polverone e punta verso di lui. I cingoli si bloccano a pochi passi dal bambino. La torretta del carro armato si apre e compare un giovane soldato americano che si toglie il casco da pilota, vede il bingo e sorride. Hi, boy. Josué fissa l'enorme carro armato e pazzo di felicità. You all alone? What's your name? Josué scuote la testa. You don't understand what I'm saying, do you? We'll give you a lift. Come on. Come on, get up here. Il carrista gli fa cenno di salire. Josué non ci pensa due volte. Si arrampica, tutto felice. I sopravvissuti del campo stanno camminando verso la strada, dove quelli che li hanno preceduti si allontanano. Sono sparsi, disordinati, le gambe incerte, troppo stanchi per esultare. Tra loro si fanno largo i mezzi motorizzati dell'armata americana. Sul carro, attaccato al carrista americano, c'è Josué, eccitato, incantato, che mette in bocca l'ultimo pezzetto di cioccolata. D'improvviso il bambino si volta. Il carro armato è passato vicino a qualcuno che lui conosce. Stop! Mamma! Il carro si ferma. Il piccolo si precipita giù. Questa è la mia storia. Mamma! Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto. Giosuè! Questo è stato il suo regalo per me. Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto. Giosuè. 1000 punti da schiantare, da ridere. Primi si ritorna a casa col carro armato. Abbiamo vinto! Voce narrante Manuela De Vito. Realizzazione tecnica Giacomo Elmi. È una produzione Centro Nazionale Libro Parlato dell'Unione Italiana dei Ciechi.